A bordo campo. Sudafrica 2010. Nel cuore del mondiale. Eh sì, manca davvero poco, conto alla rovescia che procede rapidissimamente verso l'11 giugno, ore 16, stadio, il Soccer City Stadium di Johannesburg, partita inaugurale tra Sudafrica e Messico, e allora sì che a quel punto Sudafrica 2010 avrà il suo inizio ufficiale. Giorni della vigilia caratterizzati però dalla corsa alla risoluzione degli ultimi problemi organizzativi, in primo piano rimane, come del resto nei mesi precedenti, il tema della sicurezza personale per chi tra i turisti e i tifosi viaggerà in Sudafrica in occasione del mondiale, preoccupazione anche per quelle che possono essere le minacce avanzate dal terrorismo internazionale. In questi mesi abbiamo sentito quelle di Al-Qaeda e altri gruppi terroristici in relazione ad alcune partite in particolare, come ad esempio Stati Uniti, Inghilterra oppure Danimarca, Olanda. Ebbene, sono tutte preoccupazioni ancora sul terreno e che terranno viva l'attenzione di chi a risolvere questi problemi è preposto durante tutto il periodo del mondiale. Allora oggi noi cerchiamo di fare un po' una sintesi di quelli che sono i problemi e le soluzioni in campo per quelle che sono state le nostre occasioni di incontro con le varie realtà sudafricane. Partiamo subito allora da uno degli stadi più belli, direi, per averlo visto di persona, di Sudafrica 2010, il Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Siamo entrati proprio sul campo di gioco durante un'esercitazione della polizia sudafricana pronta a far fronte a qualsiasi rischio hooligan e a qualsiasi allarme sicurezza. Sentiamo com'è andata. Quelle che sentite in sottofondo sono le voci di alcune unità della polizia sudafricana che si stanno esercitando qui all'interno dello stadio di Port Elizabeth, il Nelson Mandela Bay Stadium, uno degli impianti già pronti ad ospitare le gare della Coppa del Mondo 2010. Quello della sicurezza è uno dei temi caldi sia all'interno che all'esterno degli stati sudafricani in vista della Coppa 2010. Si lavora sodo anche sotto questo profilo e le fonti dell'organizzazione ci hanno confermato che in vista della Coppa del Mondo verranno implementati sistemi di sicurezza, ma anche la collaborazione con le intelligence internazionali per ridurre al minimo rischi di sicurezza personale, ma anche di terrorismo internazionale. Questa quindi la situazione a Port Elizabeth, massima attenzione, pensate anche alla forma fisica dei poliziotti che dalle autorità locali nei mesi scorsi sono stati anche rimproverati di essere fuori forma, di essere troppo grassi e quindi sono stati anche messi a dieta per trovarsi pronti per l'appuntamento mondiale, insomma anche tante note di colore. Ma soprattutto c'è il concreto impegno delle autorità sudafricane per prevenire qualsiasi problema sotto il profilo della sicurezza. Sul tema abbiamo incontrato Vishnu Naidu, portavoce ufficiale della polizia del Sudafrica, che ci ha illustrato le forze messe in campo e le misure di sicurezza che verranno adottate durante la Coppa del Mondo. We have dedicated 41,000 police officers to the tournament, to this tournament. 41,000. The whole country, yeah. Come sentite, Naidu sottolinea che sono 41,000 i poliziotti che verranno utilizzati in tutto il paese per garantire la sicurezza della manifestazione. 31,000 permanent, 10,000 reservists. 31,000 di questi poliziotti appartengono alle forze stabilmente in servizio della polizia sudafricana, 10,000 quelli che possiamo definire i riservisti pronti ad entrare in azione all'occorrenza. We have the help of 14 other government departments. We have a joint operational center. Opereremo, sottolinea Naidu, in coordinamento con tutte le altre realtà che garantiscono la sicurezza in Sudafrica e anche con l'esercito nazionale. Operational and intelligence structure. Abbiamo creato una struttura coordinata per unire gli sforzi, sottolinea Nadu, e anche in collaborazione con la FIFA e tutto il comitato organizzatore dell'evento. So we all work together. We establish what is called a national joint operational center. Questa quindi un po' la logica che è stata seguita per garantire la sicurezza di Sudafrica 2010, operazioni coordinate, strutture coordinate e collaborazione anche con l'Interpol e le altre polizie delle 32 nazionali finaliste per garantire appunto la buona riuscita della manifestazione, un argomento su cui ritorneremo fra poco. Ma spostiamoci da Port Elizabeth, dall'incontro che abbiamo avuto poi con il portavoce ufficiale della polizia sudafricana, andiamo a Johannesburg, quello che di fatto è il cuore di questi mondiali, con due stadi che ospiteranno molte delle partite in programma, il Soccer City Stadium e l'Ellis Park Stadium, e anche molti eventi collaterali e anche 10 nazionali che a Johannesburg e dintorni avranno la loro sede fissa. Pensate, a curare la sicurezza e a capo della rete della sicurezza della città c'è un italiano, Giovanni Pisapia, 36 anni, già un'esperienza maturata presso lo United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, responsabile già della sicurezza delle Olimpiadi di Torino 2006. Ebbene, Giovanni Pisapia ci spiega quali sono stati i criteri seguiti dalla polizia di Johannesburg per garantire la sicurezza della città durante la manifestazione più attesa dal Sudafrica. Da questo punto di vista abbiamo messo in campo alcune strategie che sono state intraprese in altre zone del mondo, che abbiamo visto che hanno funzionato molto bene. La prima è la strategia si chiama Broken Windows Approach, ovvero questa strategia che cosa dice? Questa strategia brevemente dice che il crimine violento è legato a crimini meno violenti, a crimini più potremmo dire ordinari. Questi crimini ordinari a sua volta, questo molto brevemente, sono legati all'environment, perciò sono legati alla situazione di alcune, ad esempio, di alcune strade, di alcuni quartieri. Perciò cosa succede? Che rinnovando i quartieri della città si ha un effetto prima sui crimini più banali, come ad esempio il borseggio, ma poi anche sui crimini più gravi, come ad esempio le rapine. Perciò questo è stato uno degli approcci della città. La città ha speso più di 10 milioni di euro per rinnovare tutto il centro della città con ad esempio nuove illuminazioni, nuove strade, nuovi pavement per i passanti, come abbiamo detto prima, alcune misure di sicurezza come le telecamere a circuito chiuso. Perciò tutto questo ha fatto sì che la città funzioni meglio e appunto il crimine si è abbassato. Inoltre, noi cosa facciamo in questo ufficio? Oltre a pianificare la sicurezza per i vari venues, noi facciamo tutto un crime mapping della città e con questo crime mapping attuiamo un crime analysis con il Geographical Information System, perciò noi con fotografie aeree della città noi possiamo individuare esattamente dove il crimine sta succedendo e immediatamente non solo intervenire ma prevenirlo. Questo quindi il contributo che ci ha dato il dottor Pisapia, spiegandoci un po' logiche e dinamiche della rete della sicurezza messa a punto nell'area di Johannesburg. Anzi, già vi anticipo che nei giorni prossimi ritroveremo proprio in diretta da Johannesburg Giovanni Pisapia per approfondire ulteriormente questo tema. L'altro tema caldo è quello anche della sicurezza dei turisti e quello della sicurezza delle squadre nazionali, in particolare quella degli azzurri campioni del mondo. E allora, in diretta a bordo campo Sudafrica 2010, Roberto Massucci, segretario dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e responsabile della sicurezza dell'Italia durante Sudafrica 2010. Benvenuto dottor Massucci, scherzando ma non troppo, proviamo a dare i voti alla rete di sicurezza messo in piedi dai colleghi sudafricani. Soddisfatto del lavoro fatto? Dunque, io sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto per la protezione della squadra, avendo noi avuto modo già in occasione della Confederation Cup di lavorare con la polizia sudafricana. Abbiamo avuto dei professionisti a disposizione che ci hanno assicurato un servizio di rilievo e di livello assoluto, per cui sono molto tranquillo per quanto riguarda gli spostamenti della squadra anche in occasione dei mondiali. Stiamo però lavorando anche alla sicurezza del resto della delegazione, perché come sapete in occasione delle partite della nazionale c'è tutto un gruppo di addetti ai lavori che opera nel teatro delle operazioni per preparare la gara della squadra nazionale. Anche nei confronti di queste persone stiamo lavorando perché possano lavorare in Sudafrica nel teatro delle operazioni in assoluta sicurezza e tranquillità. Qualche polemica ha destato il fatto, dottor Massucci, che l'Italia ha deciso di non dare i nomi delle migliaia di ultra che hanno il DASPO, no? Anche se questa è stata un po' la richiesta fatta dagli organizzatori alle forze dell'ordine delle varie nazionali, soprattutto quelle europee, di avere una sorta di blacklist dei tifosi pericolosi. Ci può aiutare a capire il perché di questa scelta? La decisione italiana in realtà è un fronte compatto a livello europeo, nel senso che le normative europee per la tutela dei dati personali non consentono l'invio di blacklist a prescindere dall'effettiva partenza del soggetto pericoloso per quel determinato paese. Nell'ambito della collaborazione internazionale di polizia noi saremo in grado di fornire alla polizia sudafricana tutte le informazioni di eventuali tifosi violenti che possano recarsi in Sudafrica, ma nel momento in cui li riconosciamo appunto in Sudafrica, eventualità che mi sento assolutamente di escludere già da adesso. Alla luce della sua esperienza, dei suggerimenti pratici per chi seguirà le partite della nazionale dal punto di vista della sicurezza? Dal punto di vista della sicurezza si possono assolutamente frequentare i centri storici, sui quali il piano di sicurezza delle forze di polizia sudafricane è di livello assoluto, per cui sono garantite le massime condizioni di sicurezza. Si possono frequentare i siti ufficiali, si possono frequentare tutte le località che sono state individuate per gli eventi collaterali al mondiale. Avventurarsi in visite di luoghi che non sono conosciuti è una cosa assolutamente da sconsigliare. E allora sulle note di Waka Waka, l'inno ufficiale di Sudafrica 2010 a bordo campo, vi saluta, un grazie a Fabio Cantadori in regia e a tutti i tecnici che hanno contribuito alla riuscita di questo programma, un saluto da Dario Ricci. Ehi, ai, io, ehi, ai, ehi, ai.